24 mattino. Eccoci alle 8:17 minuti, se la voce ci assiste. Ebbene sì. Allora, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rociani, buongiorno. Mamma mia, ma in che condizioni devi accompagnarmi in questa fetta economica del vabbè, mattino? Che devo fare? Ma ti sembra? La voce così, per le vie di Milano che vaga. Come mai sei conciato in questa maniera? Che ti è successo? Allora, oggi parliamo... oggi lo di che parliamo prossima. A Deborah? Lo raccontiamo tra un anno. Parliamo di un bel argomento, magari fra 10 anni, e qua ho detto tutto. Allora, gasolio da riscaldamento, perché ne parliamo? Per diverse motivazioni. Intanto perché da metà mese, dal 15 ottobre, 47 province italiane, per la maggior parte concentrate inevitabilmente nel centro-nord, cominceranno ad utilizzare i termosifoni, ad accendere le caldaie. Progressivamente poi tutta la penisola entrerà nella stagione del riscaldamento domestico. Chiaramente sembra un po' prematuro parlare di questo argomento perché ancora per fortuna in tutta Italia le temperature sono assolutamente gradevoli, però prima o poi la stagione invernale entrerà nel vivo. Gli altri gruppi di città partiranno il 1 novembre, come ad esempio Roma, poi andando avanti, appunto, le altre città accenderanno i riscaldamenti a metà novembre e il 1 dicembre, tempi diversi a seconda della latitudine di appartenenza sulla penisola, ma stessa stangata in termini monetari. Perché? Perché in questi giorni abbiamo avuto una indagine pubblicata, un monitoraggio pubblicato appunto dall'Unione Petrolifera, secondo il quale in Italia, e ancora una volta dobbiamo parlare di un record e un primato negativo per il nostro paese, abbiamo i prezzi per il gasolio da riscaldamento più alti d'Europa. E naturalmente tutto questo ha già destato l'attenzione delle associazioni dei consumatori. Buongiorno a Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno e ben ritrovati tutti voi. Allora, adesso daremo qualche prezzo, presidente. È abbastanza originale che l'industria di settore abbia voluto, divulgando questi dati, soffermarsi ed enfatizzare il fatto che abbiamo questo primato europeo. Secondo lei come mai? Ma francamente per me hanno commesso, da un punto di vista della comunicazione, un grave errore, perché è pur vero che volevano come obiettivo fare un ragionamento attorno alla tassazione di questi prodotti e probabilmente infatti volevano farci la polemica, però forse si sono dimenticati del fatto che c'è qualcuno come noi, come me, come voi, che però sa dire anche al netto delle tasse quanto costa il gasolio da riscaldamento. E guardi, glielo dico subito, al di là della compresa la tassazione, ovviamente è tra i prezzi più elevati, come giustamente lei ricordava, è quasi il doppio degli altri paesi, una cosa mostruosa, ma al netto delle tasse, anche qui, e coerentemente con benzina e gasolio di autotrazione e via dicendo, anche qui noi troviamo che il gasolio da riscaldamento costa ben 6 centesimi al litro in più di Spagna, Germania e Francia. Ecco, per me è un autogol, insomma. Ecco. Ecco, va bene. Allora, non possiamo stamattina sentire anche l'Unione Petrolifera, per la verità abbiamo cercato il presidente che questa mattina non era disponibile, ma avremo modo di riconfrontarsi proprio magari in concomitanza dell'apertura dei nostri riscaldamenti, quindi a metà mese torneremo sicuramente su questo argomento per fare questo confronto. In ogni caso ci interessa capire, Trefiletti, tutto questo quanto ci costerà quest'anno, anche se c'è da dire che rispetto allo scorso anno forse abbiamo un trend dei prezzi in discesa? Sì, più che in discesa, per la verità più o meno spenderemo come l'anno scorso, però non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo pagato di più solo per il riscaldamento 145 euro in più, e questo non è cosa di poco conto, perché questo aumento ce lo trasciniamo in buona sostanza anche nel 2009. Certo, non ci sono le tensioni sui prezzi dei prodotti petroliferi come l'anno scorso, però il prezzo del petrolio ha raggiunto già i $70 al barile, quindi è in tensione, e noi ci trasciniamo dietro questo fardello. Le famiglie italiane spenderanno, a differenza delle famiglie europee, ma si pensi che stiamo parlando proprio della metà, non di un 10-20% di differenza, proprio il costo del combustibile è della metà delle famiglie, di quanto pagano le famiglie italiane. Ecco, quindi ci sarà come al solito, una bolletta da pagare piuttosto salata. Ecco, allora intanto diamoli questi prezzi del gasolio da riscaldamento. Come ribadiamo, in Italia sarebbero i più alti in Europa. La notizia di sabato scorso, le ultime statistiche mostrano 1,068 euro al litro, dati aggiornati al 1 settembre, nettamente più alti del vecchio continente. Segue l'Ungheria, 1,044 euro. Paesi invece, come diceva Rosario Trefiletti, come Germania e Spagna, hanno rispettivamente 57,90 centesimi e 59,30 centesimi di euro al litro. Nel Regno Unito invece abbiamo 53 centesimi e 50. Praticamente la metà. La metà, esattamente. Allora, in tutto questo peraltro si inserisce la ripartenza dell'indagine della Commissione Industria del Senato sulla dinamica dei prezzi petroliferi. Oggi verrà ascoltato di nuovo Mister Prezzi, Roberto Sambuco, e abbiamo appena passato, peraltro, Presidente Trefiletti, un weekend di nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti per l'auto. Sì, quello che più ci irrita, al di là degli aumenti che possono essere di un centesimo, due centesimi, e che per noi invece dovrebbero essere più sotto almeno di 6-7 centesimi, ci indignano un po' due cose. La prima, che sono le velocità, le doppie velocità che non ci piacciono per nulla, l'abbiamo già detto mille volte: quando aumenta il prezzo del petrolio aumenta rapidissimamente il prezzo del carburante, e invece non succede così quando cala. E la seconda cosa, ma è mai possibile in Italia non si riesca a fare un serio processo di modernizzazione? Guardi, io spendo questa parola, modernizzazione, non liberalizzazione, proprio per far vedere che si tratta di una cosa che dovrebbero essere d'accordo tutti, della rete di distribuzione carburanti, come è in Francia, come è in Germania. Ma anche lì, facendola, si potrebbero risparmiare 7-8 centesimi al litro sui carburanti, e non è cosa di poco conto. E infatti l'abbiamo detto più volte che fondamentalmente sui prezzi dei carburanti che vengono praticati dai gestori alle pompe grava proprio un problema di seria inefficienza distributiva. Detto questo, tornando, Presidente Trefiletti, al gasolio da riscaldamento per le nostre abitazioni, abbiamo già appunto dato conto di questa situazione sui prezzi, i più alti d'Europa. Abbiamo già detto che rispetto allo scorso anno, tutto sommato, le famiglie italiane non potranno risparmiare molto, potranno farlo giusto perché, ecco, le condizioni meteorologiche ci stanno aiutando quest'anno. Detto questo, in vista di questo inverno, come potranno fare le famiglie, secondo lei, senza, per non svenarsi troppo? Se un grande condominio comunque deve approvvigionarsi per tutto l'inverno e deve comunque far quadrare il bilancio di tutte le famiglie, come può fare? Questo purtroppo, guardi, ci sono tanti accorgimenti per risparmiare. Per risparmiare riscaldamento, dagli spifferi delle finestre ai doppi vetri, al fatto di non stendere panni bagnati sui caloriferi. Ci sono tanti accorgimenti, possono essere trovati anche sul sito del consumatori come istruzioni per l'uso. Ma certo è che sarebbe stato più opportuno andare in due direzioni di carattere strutturale. Da un lato, continuare la incentivazione a fare caseggiati a riscaldamento, non solo a riscaldamento, ma a bassa energia, per così dire, a basso consumo di energia. E questo è un processo che deve essere messo in campo in maniera proprio strutturale, non anno per anno, ma sempre e comunque. E la seconda cosa, sarebbe stato utile se anche qui sul riscaldamento domestico si potesse arrivare a un riscaldamento individuale, appartamento per appartamento, perché guardi, quando si ha il riscaldamento individuale si possono fare risparmi notevolissimi e molto consistenti, perché ad esempio non si ha il riscaldamento durante una giornata calda, ma siccome è in automatico nel condominio e si consuma tantissimo, mentre invece si potrebbero spegnere i riscaldamenti se fossero individuali. Infatti, e a gestione appunto familiare. Probabilmente ci andremo verso questa tendenza, Presidente Trefiletti, anche se le devo dire che a casa mia, che c'è riscaldamento centralizzato, in pieno inverno a Milano, quando torno la sera a casa e c'è quel teporino già pronto, le devo dire che a me non dispiace affatto. No, certamente, però le assicuro che si può risparmiare tantissimo, certo, se c'è una gestione individuale. E infatti, cosa. Presidente, grazie molte per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Era Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Alessandro. E allora eccoci, Salvadanaio, oggi monitoriamo di nuovo l'andamento dei mercati, le borse questo settembre, come è andato, e soprattutto a ottobre cosa succederà, si riapre ancora la stagione delle trimestrali, monitoreremo un po' la salute delle aziende quotate. Noi ripartiamo dal sondaggio tra poco. Oggi vi chiediamo: il ponte sullo stretto di Messina è davvero necessario, sì o no? Potete votare, come già state facendo in tanti, sul sito di radio24.it, la sezione bianco o nero, oppure il sole24ore.com, o chiamare all'800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Sono le 8 e 32 minuti, ben ritrovati. Le notizie in primo piano sono queste. Sono allibito, ma vado avanti. Così il presidente del Consiglio Berlusconi, dopo la sentenza che ha condannato la Fininvest a pagare 750 milioni alla CIR di De Benedetti. Nelle motivazioni, il premier è considerato dal giudice corresponsabile della vicenda corruttiva alla base della sentenza con cui la Mondadori fu assegnata a Fininvest. E oggi sul fronte politico la Corte Costituzionale esamina la legittimità del lodo Alfano, la legge che prevede lo scudo processuale nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. In provincia di Messina si scava ancora nel fango alla ricerca dei dispersi. Secondo il capo della Protezione Civile Bertolaso, il numero è sceso a 9. E infine Oltean Gavrila e Yonut Alexandru sono stati condannati rispettivamente a 11 anni e 4 mesi e a 6 anni per lo stupro della Caffarella ai danni di una 14enne nello scorso 14 febbraio. La sentenza nei confronti dei due rumeni è stata contestata dal sindaco di Alemanno, che ha detto pena troppo mite. E allora questo alle 8:33 minuti. Detta la precisazione, no, potete votare per il sondaggio, ma non telefonando. Dovete votare andando sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Se invece volete intervenire, 800 24 00 24, ma per intervenire non chiamate e dire voto sì, voto no, voto sì, voto no. Non si può fare. Il sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, parliamo del ponte sullo stretto di Messina, perché è le polemiche sono su quest'opera, di la verità ci sono da sempre, da quando fu progettata all'inizio, da quando se ne parla da anni e anni, ma sono state rilanciate anche proprio nelle imminenti ore dopo la tragedia in provincia di Messina, tra l'altro con alcune parole, le parole del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Le vogliamo riascoltare? C'è una situazione di diffuso dissesto idrogeologico in gran parte causata dall'abusivismo nel messinese e in tante altre parti d'Italia. O c'è un piano serio in cui si investe, piuttosto che in nuove opere faraoniche, si investe per garantire la sicurezza di queste zone del paese, oppure si potranno avere altre sciagure. Si investa piuttosto che in nuove opere faraoniche, non l'ha citato, ma insomma il sospetto è quello. Roberto Castelli, buongiorno, vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti della Lega. Lei le ha lette così le parole di Napolitano? Non vogliamo tirare per la giacchetta il capo dello Stato, ma insomma a che si riferiva secondo lei? Ma stante l'area a cui si riferiva, si riferiva alla tragedia di Messina. Quindi è da presumere che si riferisse al ponte. Credo che l'accostamento più immediato sia quello, anche perché il ponte è diventato una sorta di simbolo sia al sud che al nord. Sembra che sia diventata un po' la madre di tutti gli sprechi, la madre di tutte le opere inutili. Sul ponte si può discutere, ma bisognerebbe discutere a mente fredda sui dati. Mentre invece, a mio parere, non è possibile discutere sulla necessità di dotare il paese di grandi infrastrutture moderne. Allora, il ponte è una di queste o meno? Io sono un leghista un po' anomalo, credo, perché sono uno di quelli che difende il ponte. In che misura? Noi abbiamo varato un grande piano di infrastrutturazione del paese, perché il paese ne ha un disperato bisogno. La classe dirigente del sud, che al momento appunto sta dirigendo il sud, ha fatto la scelta di investire i fondi che sono stati destinati al sud anche per il ponte, e quindi io da federalista prendo atto di questa scelta. Magari fossi stato io un dirigente siciliano calabrese, studiando i flussi di traffico, studiando i costi e i benefici, ne avrei tratto un'altra conclusione. però di fatto questa scelta è stata fatta. Io ricordo che questo grande piano infrastrutturale da 16,6 miliardi, il 49%, anzi il 49,5% delle risorse viene destinato al nord, quindi c'è una ridistribuzione, credo, equa delle risorse. All'interno dei finanziamenti previsti per il Sud, ripeto, viene fatta questa scelta, io ne prendo atto. Lei si definisce leghista un po' anomalo, è anche vice ministro delle infrastrutture, tra l'altro. Quindi, no, nel senso che... No, nel senso che certo, è visto... Viene visto come uno spreco, in realtà è una scelta... Non da tutto il nord, però dall'area della Lega, per esempio, sì, insomma, si ricorda... Ma non direi solo dall'area della Lega, io vedo che quando ci vogliono attaccare, sia da destra che da sinistra... Il ponte... Dicono, ma voi fate fare il ponte, ma ripeto, il ponte è una scelta strategica fatta, direi, in un'ottica federalista dall'attuale classe dirigente del Sud, quindi noi ne prendiamo atto. Oltretutto, c'è anche a dire un'altra cosa, mi perdoni, poi chiudo. Su questo piano di 16,6 miliardi, le risorse destinate al ponte sono 1,3 miliardi, cioè meno del 10%, quindi è anche una cifra, direi, molto bassa, quindi intorno a questo ponte si sta facendo tanta immaginazione, ma la sostanza è questa: destiniamo al ponte circa l'8% delle risorse. Voglio salutare il senatore Roberto Della Seta, buongiorno, il Partito Democratico. Buongiorno. Capogruppo in Commissione Ambiente, è stato anche presidente di Lega Ambiente, insomma, quindi il curriculum, se possiamo dire così, è abbastanza chiaro sulla sua posizione, mi pare di poter dire negativa sul ponte. Negativa perché il ponte no, possiamo dire? Ma allora, ci sono due, credo, profili della risposta. Il primo riguarda anche quello che è successo in questi giorni a Messina, la tragedia di Messina. Un paio di giorni fa il ministro Matteoli si è chiesto polemicamente cosa c'entri il ponte e le risorse sul ponte con la tragedia appunto di Messina, di Giampilieri. Beh, la risposta è semplice. Come ricordava il vice ministro Castelli, per il ponte sono stati stanziati pochi mesi fa 1,3 miliardi di euro, quando i fondi stanziati dal governo per la difesa del suolo, quindi anche per la difesa del suolo in Sicilia, sono stati decurtati da circa 500 milioni ai 120 previsti per il prossimo anno. Ma voglio anno. Dire, lei dice sono stati tolti da lì per metterli al ponte, questo vuol dire? Cioè, nel senso, sono stati sottratti necessariamente dalla tutela del territorio per metterli al ponte? No, io voglio dire che l'Italia ha un problema di bilancio pubblico, ha una disponibilità limitata di risorse. Credo che queste risorse vadano impegnate sulla base di priorità. Io sono d'accordo col Capo dello Stato, la priorità oggi nel Sud e non solo nel Sud è mettere in sicurezza il territorio, questa è la grande infrastruttura di cui abbiamo bisogno. Poi sull'utilità del ponte in sé mi limito a ricordare che il ponte sorgerebbe in un'area del paese dove spesso per percorrere 200 km in treno, per esempio da Messina ad Agrigento, oggi occorrono 7 ore di viaggio o per andare da Reggio Calabria a Taranto. Allora, ragionare di questa grande opera appunto faraonica in un deserto di infrastrutture ordinarie, io credo che non abbia senso. Questo è un tema interessante, vice ministro Castelli, l'accusa spesso che si fa, si dice, si fa il ponte, va bene, facciamo questo ponte, questi 3 chilometri, si va veloci in questi 3 chilometri, si attraversa lo stretto velocemente e poi le infrastrutture, i treni, 7 ore per andare da una parte all'altra in Sicilia, cioè a che serve allora velocizzare e poi dopo ti devi fermare? In effetti io prima ho premesso che se fossi stato un appartenente alla classe dirigente siciliana, analizzando i dati, i flussi di traffico, le necessità del territorio, forse avrei preso un'altra decisione. Io vedo nella dichiarazione del nostro interlocutore un fondamento reale, quindi su questo bisognerebbe ragionare, però ripeto, io da buon federalista prendo atto che la classe dirigente, ancora una volta, ha fatto questa scelta. Però c'è un'altra cosa sulla questione del dissesto idrogeologico. La Sicilia ha appena ricevuto, almeno in termini di competenza, stante l'ultima seduta del CIPE, 4 miliardi, anzi un po' più di 4 miliardi, che deve impiegare in infrastrutture. Quindi i fondi per intervenire sul dissesto idrogeologico ci sono. È chiaro che se poi vengono spesi sempre per stipendi, per pagare i 20.000 dipendenti del comune di Palermo, per la sagra della salsiccia, che sono noti, e allora non risolveremo mai il problema. Che ha detto 4 miliardi, che sono circa tre volte la cifra che è stata stanziata per il ponte, che sono appena stati stanziati per la Sicilia, vengono usati in maniera razionale. Ma c'è un'altra questione fondamentale. Qui l'ha detto chiaramente Bertolaso, qui c'è stato un fenomeno di abusivismo enorme. Abbiamo visto che ci sono state oltre 1.100 ordinanze di demolizione di case costruite sul greto del torrente e nessuna è stata eseguita. Poi, come ha non detto... è possibile immaginare che si possa inseguire l'abusivismo, non risolveremo mai il problema. Come ha detto anche Bertolaso, la sagra della salsiccia, i soldi lì alla sagra della salsiccia, era un'immagine molto evocativa. Castelli, le chiedo, ma in 10 secondi, perché poi voglio presentare, se c'è già un rumore fastidioso di zanzara che si avvicina, le chiedo in 10 secondi, ma Napolitano le ha dato fastidio il fatto che abbia fatto questo accostamento? Dice a me? Sì, Castelli. No, fastidio no, però credo che il Presidente Napolitano, quando interviene su scelte del governo, non voglio dare nessuna lezione al Presidente Napolitano, per carità, che considero uno dei, anzi probabilmente il miglior Presidente della Repubblica che io abbia conosciuto, però forse dovrebbe approfondire di più i temi, perché è chiaro che le sue parole poi pesano enormemente. Certo. Allora, dicevo che sento un rumore fastidioso di zanzara. Giuseppe Cruciani, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sapete, insomma, Giuseppe Cruciani è la nostra zanzara serale, ma oggi anche mattutina, ti abbiamo svegliato. Giuseppe, tra l'altro, autore del libro Questo ponte sa da fare, una dichiarazione perentoria, perché c'è qui Della Seta che dice il dissesto idrogeologico è sotto gli occhi e noi mettiamo i soldi per il ponte, le infrastrutture non ci sono e facciamo il ponte. Che replichiamo? Ma si può replicare in questo modo, perché si tratta di una classica posizione, detto con tutto il rispetto naturalmente, di benaltrismo, cioè quando c'è di fronte il ponte c'è sempre qualcosa di meglio da fare. Se fosse così semplice spostare una posta, una partita di bilancio, diciamo, dal ponte alle opere infrastrutturali della Sicilia e della Calabria, l'avremmo già fatto da 100 anni. Ci provò il governo Prodi, quei soldi passarono dal ponte alla Calabria, alla Sicilia, ma non furono poi sono mai stati risolti. Sì, poi sono stati tornati al governo, sono tornati nella disponibilità del governo, che poi li ha utilizzati per l'ICI, per tagliare l'ICI, dunque è dovuto passare un altro anno prima che tornassero al ponte. Non è così semplice spostare i soldi da una partita di bilancio all'altra, primo. Secondo, non capisco cosa c'entra tutta la questione delle frane di Messina col ponte. È una roba, secondo me l'accostamento è veramente un'opera di sciacallaggio politico, non ha nulla a che fare, sono due partite, due poste, due storie completamente diverse. Una è una, come ha detto Castelli, come ha detto anche Della Seta, una storia di soprattutto di incompetenza da parte dei politici locali e dei cittadini che hanno costruito dove non dovevano costruire. La seconda è una storia che va avanti da più di 100 anni. E allora, sciacallaggio politico, ripartiamo da questo. Dopo il traffico, andate a votare sul sito ovviamente radio24.it o il sole24ore.com. Ma c'è da dire che per il momento mi pare le persone che stanno votando giudicano negativamente il ponte. Il 70% in genere dice di no, più o meno il 70%. Poi il dato più preciso più avanti. Traffico, rientriamo. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Il ponte sullo stretto di Messina, opera necessaria, sì o no? Che ne pensate? Radio24.it per votare. Intanto vado proprio a Reggio Calabria, quindi andiamo in Calabria. Da Luigi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, sì. Fa sempre le cose molto interessanti, diciamo. Dica sul tema. Per quanto riguarda sul ponte, il ponte secondo me è indispensabile per collegare la Sicilia al resto dell'Italia, perché in effetti soltanto col ponte si può avere un attraversamento rapido dei treni, diciamo, che vengono in Italia, perché consideri che, diciamo, l'alta velocità, che è tanto, diciamo, indispensabile al collegamento, diciamo, rapido di tutti quanti le varie città d'Italia, non può fare a meno di questo ponte per poter attraversare. Sì, l'alta velocità però, come lei sa, si ferma a un certo punto, non arriva fino a Reggio Calabria. Comunque, insomma, lei è a favore del ponte, assolutamente. Noi per esempio abbiamo i treni che partono da Catania, che devono essere smontati in Sicilia, messi sulla nave e poi rimontati, quindi diciamo un treno impiega mediamente un'ora per fare l'attraversamento, non è un discorso che sarebbe soltanto... Si velocizzerebbe l'attraversamento, rimane effettivamente quel problema poi una volta attraversato delle infrastrutture di qua e di là, sia in Calabria che in Sicilia. Però grazie Luigi, voglio andare a Firenze da Loris. Buongiorno Loris. Buongiorno. Dica. Io del ponte saprei cosa farmene in questi momenti di crisi globale e italiana più che altro. Cosa serve il ponte? Che c'è da fare tante cose prima del ponte. C'è la gente che non riscuote l'integrazione, ma lo capisce Berlusconi che la gente non sa come fare andare avanti con la vita e questo qui va a spendere miliardi e miliardi per il ponte. Facciamo le cose più necessarie, poi il ponte viene da dopo. Va bene, Loris, no, è chiaro il suo pensiero, insomma è un po' quello che Cruciani, il nostro Cruciani, bolla come, eccolo là, il benaltrista. Della Seta, lo sciacallaggio politico, riferiva a questo Giuseppe Cruciani, l'accostamento, una sorta di sciacallaggio politico, che replica? Prima, qual è secondo me il nesso alla vicenda di Messina e alla vicenda del ponte? Il nesso è semplicemente nel fatto che abbiamo pochi quattrini e bisogna spenderli bene. Dopodiché io sono d'accordo che il problema non è solo di fondi ma è di capacità di spenderli, e sono d'accordo che la Sicilia in particolare ha avuto molti soldi e che molto spesso li ha spesi male. Però sul ponte, a proposito di sciacallaggio, io vorrei ricordare che questa storia va avanti da molti decenni, ne parlava già Garibaldi quando era senatore del Regno del collegamento tra Reggio e Messina. Beh, sono state anche raccontate un sacco di bugie. Per anni ci è stato detto che il ponte non sarebbe costato una lira prima e un euro dopo di soldi pubblici, che sarebbe stato pagato dai privati, che c'era la fila di giapponesi, di americani. Poi nel marzo scorso, come ho ricordato, il governo ha stanziato 1,3 miliardi e altri ne dovrà stanziare. Quindi questa è un'opera pubblica nel senso più tradizionale del termine, che pagherebbero i contribuenti. E allora se la pagano i contribuenti, io credo che si abbia tutto il diritto e anzi forse il dovere di stabilire se è davvero così urgente. Io prima ho citato i tempi di percorrenza in Sicilia, ma in Sicilia ci sono 700 chilometri di ferrovia su 1400 che non sono elettrificati, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Su questo Castelli, ma anche Giuseppe Cruciani che ne ha scritto un libro, Vice Ministro Castelli, la questione dei costi, quando si parla di opera faraonica è perché insomma oltre che imponente nella sua eventuale visibilità, nel suo impatto visivo, anche faraonica nella questione dei costi, è così? Ma per dirla tutta, è noto tra gli addetti ai lavori che se si facesse un tunnel anziché il ponte, che sarebbe poi, diciamo, raggiungerebbe esattamente lo stesso risultato, costerebbe molto meno. Questo è un dato noto a tutti gli addetti ai lavori. Perché è stata fatta la scelta del ponte? Perché il ponte diventerà un simbolo, questo credo che sia il motivo per cui il presidente Berlusconi caldeggia così tanto questo ponte. Ripeto, io se fossi un dirigente siciliano probabilmente farei altre scelte, perché è vero quello che diceva Della Seta, il ponte non si potrà mai fare in project financing perché costa troppo rispetto al flusso di traffico, è vero che se si facesse un tunnel costerebbe molto meno, qualche miliardo in meno, quindi relativamente meno. Ma io credo, per tornare e quello è un punto sul quale io vorrei soffermarmi, che mi pare fondamentale per la discussione di oggi, su quello che ha detto il presidente Napolitano, noi dobbiamo imparare a essere un paese che rispetta le regole, altrimenti le tragedie le vivremo sempre. Io ricordo che noi abbiamo una bomba atomica sulla testa che è il Vesuvio, si sa non se esploderà o meno, ma il dubbio è soltanto quando esploderà. Sul Vesuvio insistono 200.000 abitanti che abitano case abusive, E sono questi i problemi gravissimi dell'Italia, degli italiani che non rispettano le regole. Non ponte sì, ponte no. Cruciani, su questo, sai che moltissimi dicono, ma insomma, però questo tema delle infrastrutture che non ci sono in Sicilia, in Calabria, e si vuole costruire il ponte, molti insistono su questo. Tu perché definisci che una dose di benaltrismo e basta? Giuseppe? Che il ministro Castelli, l'ex ministro Castelli, vice ministro Castelli e Della Seta siano sostanzialmente d'accordo, e questo la dice lunga sul fatto che il ponte ha avuto negli anni un'opposizione in realtà trasversale, che il ponte è diventato dal 94 un po' il ponte di Berlusconi, e in realtà molti nel centrodestra non sono abbastanza convinti anche in Sicilia. Primo. Secondo, non è affatto un'opera faraonica. Il senatore Della Seta ha insistito molto su questo punto, ma non è così. Cioè, lo sa benissimo il vice ministro Castelli, il ponte costa poco più della metropolitana C di Roma, molto meno della TAV, costa 4 miliardi di euro che diventeranno 6 con gli ammortizzamenti e tutto. È un'opera, diciamo, grande dal punto di vista ingegneristico, importante, ma non è affatto un'opera faraonica. È facile dipingerla così, anche nel centrodestra qualcuno ha commesso l'errore, anche demagogico, ma non è nella realtà delle cose. I ponti si costruiscono facilmente in tutto il mondo, perché non è stato fatto il tubo sotterraneo, come dice Castelli, ma è una storia vecchia, ormai superata. Qui siamo in una situazione in cui non si può tornare indietro, in cui ci sono le gare d'appalto già assegnate, pagheremo un sacco di penali, come sa benissimo Della Seta. E poi fare il paragone con le ferrovie elettriche in Sicilia, sì, è un problema grave che andrà risolto, ma non c'è collegamento, non c'è nessun collegamento tra le ferrovie che non funzionano in Sicilia e il fatto che si voglia fare il ponte. Sono due partite completamente diverse, e accostare ancora una volta e parlare di Sicilia e Calabria come due deserti infrastrutturali, cosa che non è così, evidentemente ci sono problemi, ma non è così, è anche offensivo nei confronti dei siciliani e dei calabresi. Un'altra cosa, ministro Castelli, non è un'opera, secondo me, siciliana, come dice lui, o meridionale, è un'opera chiaramente che ha bisogno di un appoggio nazionale, altrimenti non si farà mai, non è un'opera che serve solo alla Sicilia e alla Calabria. E su questo, tra l'altro, io mi devo fermare, ma voi continuate a votare sul sito radio24.it o sole24.com, però vice ministro Castelli, in 10 secondi, ma così si spogli un po' della sua veste politica da vice ministro, ma secondo lei questo ponte si farà oppure no? No, il ponte si farà, ormai è stato deciso, è stata una scelta precisa. Si farà, perché è stato il CIPE ha dato avvio allo stanziamento, quindi le opere inizieranno quanto prima, le prime opere saranno ovviamente la cantierizzazione, quindi il ponte si farà. Bene. Questo è un dato, ma io credo di aver espresso chiaramente la mia posizione. Sì, no, ma l'ha fatto, però ci dobbiamo fermare, vice ministro. Io ringrazio sia lei sia il senatore Roberto Della Seta, il nostro Giuseppe Cruciani, Zanzara mattutina oggi e ovviamente serale, come di consueto, dalle 18.30. Grazie Giuseppe, votate radio24.it, il sole24.com. Ringrazio anche Alessandro Marco Tulli in redazione, Peter Bescapè in regia, e ci ritroviamo domattina alle 7.30.